tradizione e dopo andremo nella discussione effettiva. Okay? Quindi siamo a pagina, avete questo testo se volete seguire con noi. Preghiera per insegnamenti, c'è il sutra del cuore della perfezione della saggezza. Ovviamente, come l'avrete capito, ho un accento un po' strano, quindi pazienza. Okay? Mi prostro ai tre gioielli supremi, così una volta udì, il Bhagavan dimorava Yajgiri sulla montagna picca dei voltoi insieme a un Vassanga di monaci e un Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Ari Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica nella profonda perfezione della saggezza, vedi anche i cinque aggregati come vuoti in un'intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Ari Avalokiteshvara, come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò. E il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Saradvati. Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazione, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattori di composizione né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure i costituenti dell'occhio e così via, fino ad includere i costituenti della mente e costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia e morte, insensione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiere. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazione, senza paure, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana. Ed affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha, dimoranti nei tre tempi, sono anche completamente risvegliati all'insorpassabile e perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Shariputra, in questo modo che il bodhisattva, mahasattva, dovrebbe alzarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimerse da quel samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto, figlio di lineaggio, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, per finita tagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Saradvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea intorno a loro, insieme al mondo dei dei uomini, insieme dei Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Questo è uno. Due, quindi, visto che diciamo, quello che cerchiamo di fare diciamo, è qualcosa che avrebbe dei benefici, sono vari tipi di benefici, quindi nel contesto del buddismo, okay, lo scopo del buddismo è di diminuire la sofferenza o eventualmente eliminarla. Quindi dobbiamo cercare di avere una mente congrua a quel tipo di ascolto. Allora ci sono varie motivazioni che possiamo incontrare all'interno della persona che si interessa al sentiero del Dharma. Il primo è una ricerca della felicità nelle vite future, che questo è il primo livello di motivazione. Il secondo livello sarebbe il desiderio di emanciparsi della sofferenza dell'esistenza in generale. Okay, questa è la ricerca quindi della liberazione individuale o il nirvana. E il terzo sarebbe la ricerca dell'ottenimento dello stato di Buddha, dove la mente arriva al suo pieno potenziale e diventa in grado quindi di diventare, la propria mente diventa una fonte di benessere e di felicità per gli altri. Quindi questo si chiama il grande veicolo, il Mahayana. Questi insegnamenti fanno parte di questo ciclo, di discorsi, quindi dovremmo avere una mente congrua a quel livello di insegnamenti, okay, per incontrarci. Quindi dovrebbe fare una piccola contemplazione, riflessione all'inizio dell'insegnamento per aggiustare quel livello di motivazione. In quel modo le proprie azioni diventano cause, cioè la motivazione, l'azione stessa guidata da questa motivazione diventa la causa per quel tipo di risultato, che quindi si dovrebbe riflettere al fatto che siamo all'interno dell'esistenza ciclica da tempi senza inizio, stiamo sperimentando varie sofferenze generali particolari, le varie forme di esistenza, esattamente in tutte queste vite, no? Abbiamo avuto padre, madre, cerchiamo dove sono queste padre e madre di queste vite passate che abbiamo avuto, sono gli esseri che sono intorno a noi, quindi nel buddismo gli esseri che sono intorno a noi sono le padre e madre delle vite passate, quindi esattamente come i propri genitori, la propria madre di questa vita è di una grande bontà, grande gentilezza nei nostri confronti, lo è stata e lo è ancora, esattamente quindi siamo stati al centro della sua attenzione, del suo amore, tutta la sua vita, e esattamente nello stesso modo tutti gli altri esseri, quando abbiamo avuto questa connessione con loro, hanno mostrato questa stessa gentilezza, questo stesso amore nei nostri confronti. Quindi si dovrebbe sentire questo grande debito che abbiamo per tutti gli esseri, no? Questo grande debito, e pensare a ricambiare questa gentilezza, no? A ricambiare questa gentilezza. E per questo si dovrebbe generare amore, l'amorevole gentilezza, che nell'entità del pensiero possono tutti essere ottenere la felicità, le cause della felicità. Questo sarebbe il primo passo. Poi dovrebbe essere il secondo passo, riflettendo sul fatto che la felicità è possibile solo all'interno dell'estensione della sofferenza, quindi si dovrebbe anche generare il secondo pensiero, che è la grande compassione, che nell'entità del pensiero possono gli esseri essere liberi della sofferenza, delle cause della sofferenza. Okay? Quindi cerchiamo di generare queste attitudini e poi andremo avanti. Quindi prendiamo un paio di minuti per riflettere a queste cose. Grazie. Che si dovrebbe generare questa responsabilità universale, che è il desiderio di assumere su di sé la responsabilità della felicità degli altri, okay? Di sentirsi responsabile di proteggere le persone dalla sofferenza e porre in uno stato di felicità. Dobbiamo vedere che nello stato attuale non possiamo neanche fare per noi, è anche difficile di compiere il proprio scopo. Quindi è molto difficile di fare quello degli altri, quindi dovrebbe ricercare e vedere chi ha questa possibilità, chi ha effettivamente quel potenziale di guidare individualmente gli esseri per uno stato al di là della sofferenza, che conosce quali sono gli oggetti di abbandono, cosa deve essere sviluppata come qualità all'interno della mente. E vedremo che questo essere è proprio nell'entità del Buddha, no? Dove la mente ha attualizzato il suo pieno potenziale, quindi si dovrebbe generare adesso questo pensiero, che si chiama la mente dell'illuminazione, che caratterizza l'attitudine di un essere di questo terzo livello di motivazione dal quale parlavamo, no? Quindi l'entità del pensiero che posso io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio degli esseri, di tutti gli esseri senzienti. E questa è una mente estremamente importante all'interno diciamo, del buddismo. Con questa attitudine dovrebbe recitare cioè la presa di rifugio e dopodiché andiamo avanti. Sanghe Jadam Sanghe Jadam Lai Jangjo Mandu Dani Gyapsu Ji Dangi Jinzo Gyepe Sanangi Rola Penje Sanghe Drupa Sanghe Jadam Sanghe Jadam Lai Jangjo Mandu Dani Gyapsu Ji Dangi Jinzo Gyepe Sanangi Rola Penje Sanghe Bajo Sangye Jodan Sogye Jonam Lai Jonju Badu Gyapsu Ji Dangye Jin Sogye Pe Sonam Ye Drola Benji Ye Dro Bajo. Bene, quindi volevo chiedere alle persone che sono qui se hanno familiarità con insegnamenti sul buddismo, sia la prima volta, siano già, c'è qualcuno che è completamente neofito in questa cosa? Ok, uno solo? Tu no, ma cosa? Ok, quindi abbiamo un po', per favore, sì. Quindi non sanno niente di cos'è il buddismo, ok. Poche cose. Ok, abbiamo un pochino. Ok, va bene. Allora, come dicevo prima, no? Il buddismo ha come scopo il suo unico scopo è di diminuire la sofferenza nel continuum degli esseri senzienti. Diminuire la sofferenza, un primo stato, un secondo stato è eliminarla completamente, cioè eliminare completamente la sofferenza fisica e mentale. Quindi per il buddismo si guardiamo la felicità, come sorge la felicità. Vediamo che la felicità può dipendere, abbiamo una felicità che si basa su quello che viene chiamata i poteri sensoriali, sui contatti con oggetti dei sensi, okay? Quindi una felicità basata su oggetti esterni, e abbiamo una felicità anche, diciamo, più interna, okay? Più interna, quindi nello stesso modo per la sofferenza, esperienze di sofferenza o sgradevole, spiacevole, possono sorgere dovute al contatto con oggetti sensoriali, oggetti esterni, o con cause più interne. Okay? Se guardiamo queste due, la felicità o la sofferenza causata da fenomeni esterni e la felicità o la sofferenza causata da eventi interni, vediamo che la seconda predomina, ha molto più potere, molto più potente, nel senso che possiamo trovare persone che a livello, diciamo, esterno hanno un certo benessere, hanno una certa salute, un certo successo anche nella vita, sia a livello familiare che a livello professionale, eccetera, però nonostante la mattina si può anche svegliare in questa bella casa, eccetera, però la mente è infelice, ok? È infelice. Quindi vediamo che anche se le condizioni esterne sono piacevole, l'esperienza interna di questa persona è di sofferenza. È l'opposto, abbiamo anche delle persone che sono sicuro che avete incontrato, persone che non hanno un grande benessere fisico, materiale, anche certe volte anche una salute un po' precaria, però mantengono una mente comunque gioiosa, serena. Abbiamo incontrato queste persone, esistono. Questo ci mostra quindi che la propria felicità, le sensazioni interne, no? Le sensazioni che si basano su esperienze, chiamiamole interne invece di esterne, sono predominanti e hanno più potere. Quindi questo ci spiega che la felicità o il benessere, almeno nell'interno del buddismo, non esiste troppo nelle situazioni esterne o nell'ambiente o nelle persone che ci circondano, ma in come la nostra mente interagisce con queste persone, con queste situazioni, ok? Come la mente concettualizza, ok? Il modo di pensare, la propria concettualizzazione è in grado di produrre sensazione. Che è sensazione, o in una lingua più barbara le chiamiamo emozione, però infatti sono delle sensazioni, ok? Quindi il proprio modo di pensare produce delle sensazioni. Queste sensazioni sono in generale di tre tipi, possiamo semplificare le cose, tre tipi: piacevole, spiacevole e neutre. Quindi se la mente pensa in un modo positivo, automaticamente le sensazioni sono piacevole. Molto semplice, se la mente si impegna in una concettualizzazione negativa, di critica o di insoddisfazione, automaticamente l'esperienza della persona è spiacevole, qualsiasi ciò che c'è intorno, qualsiasi il benessere che questa persona può avere riuscito a ottenere, il proprio modo di pensare è la chiave della felicità o della sofferenza. Quindi il buddismo ha come scopo di risintonizzare la propria mente, cioè di riaggiustarla propriamente e fare in modo che la sua dinamica, il suo processo dinamico sia congruo con l'esperienza di felicità. Okay? Diciamo, in breve, questo è lo scopo. Se avete delle domande, mi potete fermare, ok? Io cerco di rispiegare se qualcosa non è chiaro, eccetera. Ok? Quindi fin adesso è chiaro? Cioè, ha senso per voi quello che vi sto dicendo? O è qualcosa di completamente assurdo, nuovo? Cioè, dovete riflettere su queste cose, dovete vedere se sì, effettivamente è così, altrimenti non ha un grande valore quello che vi sto dicendo. Quindi, lo scopo del buddismo quindi è l'ottenimento della felicità. Ecco perché c'è la pratica del buddismo, no? Il perché bisogna mettersi a praticare il buddismo, perché è un metodo per incrementare la propria felicità e eliminare la sofferenza. Incrementare la felicità, eliminare la sofferenza, perché a un livello quasi innato, intrinseco, la mente cerca automaticamente il contatto con ciò che gli appare come piacevole e essere separato di ciò che gli appare come essere sofferenza. E quindi ogni decisione che prendiamo nella nostra vita, ogni decisione, qualsiasi, okay? Anche quelle più incongrue, pure più minime, cioè come cambiare pettinatura, cambiare occhiali, cambiare lavoro, cambiare posto, scelte di studi, scelte di vita, cioè scelte di pazzia, sono motivati solo perché pensiamo che la mente percepisce che in questo modo avrò una più grande felicità, un più grande benessere. Okay? Quindi questo è il movimento della mente, no? Quindi ogni scelte sono motivati da questo desiderio. Il problema è che abbiamo delle concezioni erronee, possiamo metterle come distorsione della realtà, ok? Quindi distorsione della realtà è dovuta a questa sovraimposizione che abbiamo sul modo di esistere dei fenomeni, sia a livello convenzionale che a livello, diciamo, più ultime del modo di dimorare dei fenomeni. Abbiamo quindi questa sovraimposizione erronea che ci impediscono di interagire in un modo, cioè in un modo concordante con la realtà dei fenomeni, concordante con la realtà degli oggetti. E questo crea grande agitazione, grandi disturbi nella propria mente. In povere parole, abbiamo quattro grandi concezioni che ci impediscono di ottenere una serenità e il benessere nella vita, no? Abbiamo la concezione di permanenza, cioè il proiettare o sovrimporre permanenza dove infatti c'è impermanenza, perché nel senso che tutti i fenomeni prodotti che dipendono da causa e condizione sono in costante mutamento e alla fine sono distrutti. Okay? Però la nostra mente, anche se a livello, se ci pensiamo, è in grado di capire questo aspetto di impermanenza dei fenomeni, il modo nel quale, in un modo innato, si relaziona con questi fenomeni è invece con la sovraimposizione del concetto di permanenza. Le relazioni sono permanente, le persone sono permanente, tutto è permanente, okay? La salute è permanente, il benessere cioè economico è permanente, i vari fenomeni che noi ci possiamo comprare, eccetera, sono permanenti. Quindi visto che funzioniamo con questa distorsione, ogni volta che incontriamo, siamo in contatto, che entriamo in contatto con la realtà convenzionale di questi fenomeni, cioè la loro impermanenza, allora c'è una grande insoddisfazione, un grande disturbo nella propria mente, no? Poi ne abbiamo un'altra, che è il concepire la purezza, dove infatti c'è la natura ed essere impuro, okay? Questo vedremo più avanti. Poi abbiamo anche il concepire felicità, dove infatti c'è sofferenza, di ricercare qualcosa perché pensiamo che è felicità, invece quando viene analizzato vediamo che è nella natura della sofferenza. E poi la più importante di queste quattro concezioni è la sovraimposizione di senso intrinseca di vera esistenza del sé dei fenomeni. Quindi questo è una reificazione dei fenomeni, okay? Andiamo a sovraimporre un'esistenza autonoma, intrinseca, indipendente, dove invece non c'è. Questo è qualcosa di un aspetto molto difficile che richiede molto studio, non entreremo sicuramente in questo oggi. Quindi l'eliminazione di queste varie concezioni è qualcosa che si fa gradualmente all'interno di un addestramento. Questo addestramento viene organizzato quindi attraverso questi vari stadi del sentiero in tre livelli di motivazione, e ciascuno di questi vari livelli di motivazione si occupa di eliminare delle concezioni, delle sovraimposizioni o delle concezioni erronee nel continuum della persona. E questo continuo eliminazione delle concezioni erronee fanno che la mente diventa sempre più, diciamo, serena, dovuto a questa eliminazione concezione erroneo, che creano varie attitudini come la brama, l'invidia, l'avversione. Tutti questi eventi mentali risultano o esistono perché alla base c'è un fratendimento della realtà, okay? Che il modo di percepire, di concepire il mondo e la propria persona è completamente erroneo, e quindi questi vari eventi mentali di brama, desiderio, okay? Di attaccamento, di avversione, di belligeranza, di orgoglio, avidità, tutti questi sono delle risposte logiche alle distorsioni della realtà che abbiamo. Quindi se vogliamo completamente pacificare la mente, okay? Perché parliamo della abbiamo visto, no? Che c'è la sofferenza, il benessere fisico e quella proprio mentale. Quindi il benessere mentale può esistere soltanto una volta che la mente è stata completamente pacificata. Quindi c'è questo lavoro di pacificare queste proprie attività mentali per guadagnare questo benessere. Questo in due linee è quello che cerchiamo di fare. Quindi non ero preparato a fare un'introduzione sul buddismo, questa è una cosa che faccio così improvvisa, perché quello che mi ero preparato è entrare e continuare il testo che abbiamo incominciato insieme. Quindi adesso ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo visto, che vi ho presentato appena adesso. Sparate, perché questo è il vostro momento. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi noi a che pagina siamo nel testo? Noi siamo ad identificare la preziosa rinascita umana, ok? Quindi all'inizio di questo ciclo di insegnamento c'è il prendere coscienza della preziosa rinascita umana, che è del potenziale che abbiamo. Quindi si contempla quali sono i vari attributi della preziosa rinascita umana, poi vedremo qual è il suo potenziale e la difficoltà di ottenere quel tipo di esistenza per spingere l'individuo a cogliere l'essenza di questa opportunità, okay? Cogliere l'essenza di questa opportunità prima che la morte ci separa di queste apparenze. Quindi dovrebbe essere, io non ho lo stesso testo di voi, però abbiamo fatto. Beh, il soggetto effettivo, giusto? Ok, quindi. 19:20. Allora, in termini dei titoli siamo. Ma abbiamo sì, soggetto effettivo, siamo al 2, il soggetto effettivo, l'esortazione allo scopo di prendere l'essenza riferita a questo sostegno di libertà, 2b, il modo in cui prendere quell'essenza. Qui abbiamo visto riconoscere le libertà e le ricchezze e siamo arrivati al contemplare il loro grande significato. E quindi se c'è qualcuno di lingua italiana che può leggere il testo, tipo Davide per esempio, grazie. No, Olivia, se non sbaglio gli sottattributi li Li avevamo. abbiamo visti? Sì, Sì. la lettera l'ho Quindi studiata. adesso siamo al contemplare il loro grande significato. Due a due, contemplare il loro grande significato. La lettera di studente dice: il Sugata che mostra il sentiero è descritto come la guida degli esseri trasmigranti. Una grande forza mentale è ciò che viene trovato dagli esseri umani. Quel sentiero non è trovato dagli dei e dei Naga, né dai semidei Garuda, Kinnara e dagli spiriti serpenti. Gli esseri delle tre migrazioni negative sperimentano principalmente la maturazione della non virtù. A causa di questo, essi non sono molto abili ad accumulare delle azioni con quel supporto. Sebbene gli dei godano principalmente la maturazione della virtù, la loro forza nell'accumulare le azioni è piccola. Gli esseri umani hanno una grande abilità e forza nell'accumulare virtù e negatività. E in particolare, dal momento che noi esseri di Jambudvipa siamo il terreno delle azioni, essendo coinvolti in ciò che in modo non erroneo deve essere adottato ed abbandonato, dobbiamo generare quella mente che conduce ad una vita del più alto stato, qualificata dal sostegno di un Deva o di un essere umano, che conduce al nirvana degli uditori e dei realizzatori solitari, e che conduce gli esseri trasmigranti al terreno di un Tathagata. Poiché essa completa gli stati elevati di un Buddha, si mediti fino a quando si genera una gioia simile a quella di un mendicante che trova un tesoro, attraverso il contemplare ciò che ho ottenuto è di gran lunga superiore ad un gioiello che soddisfa ogni desiderio. Grazie. Ok, quindi nella sezione precedente avevamo identificato quali erano i 18 attributi che qualificano la preziosa rinascita umana, quindi abbiamo fatto la distinzione tra l'esistenza umana in generale e la preziosa rinascita umana qualificata da 18 attributi. Abbiamo visto che c'erano 8 libertà, 10 ricchezze. E adesso, quindi questo è sempre un preliminare all'addestramento effettivo nei stadi del sentiero, e questo preliminare ha come scopo di esortare la persona, il discepolo, a cogliere l'essenza di questa opportunità. Quindi prima si vede questi 18 attributi. Allora, questi 18 attributi, ne abbiamo parlato l'altra volta, non torno sull'argomento, vanno a contemplare uno per uno, nel senso che il vostro scopo, questo è indirizzato alle persone che contemplano queste cose, devono essere contemplate uno per uno, e dovete vedere che manca uno, allora automaticamente tutta la pratica spirituale è impossibile. Si manca uno di questi di attributi, o uno di queste libertà, una di queste ricchezze, allora dovete capire che tutto il sentiero è impossibile da mettere da praticare. Okay? Quindi questo è il modo di fare. Per esempio, se mi manca questo, allora questo non è possibile. O se invece sono in questa situazione, tutte queste altre cose sono impossibili. Okay? Quindi questo è il modo di riflettere. Il secondo, quindi questo è il riflettere, si chiama sull'entità della preziosa rinascita umana. Adesso siamo entrati nel contemplare il significato della preziosa rinascita umana, quindi il potenziale, questo che è di questo che si tratta qui, il potenziale della preziosa rinascita umana. Quindi il potenziale si tratta in termini di benessere temporale e il benessere ultimo, ok? E il benessere ultimo è suddiviso in due. Abbiamo il nirvana, la liberazione individuale, e lo stato di Buddha. Quindi con questo supporto di essere umano abbiamo quindi la capacità, okay? Avendo queste 18 attribute, avendo quindi una preziosa rinascita umana completamente qualificata, okay? con i poteri sensoriali che funzionano correttamente, con una mente chiara che è capace di analizzare, riflettere sulle cose, quindi discriminare tra ciò che deve essere adottato e ciò che deve essere eliminato, alla capacità di addestrarsi nel sentiero e a creare cause di felicità futura. Okay? Quindi all'interno del buddismo tutto si basa sul sorgere dipendente, tutti i fenomeni sorgono dovuti a cause e condizioni, okay? Tutte le, qualsiasi fenomeno, okay? Anche le proprie esperienze interne o le situazioni di vita sorgono dovute a cause e condizioni. Quindi a livello delle esperienze interne abbiamo anche un'altra legge che gestisce queste varie esperienze, che si chiama la legge del karma, la legge della causa-effetto. Karma in sanscrito significa azione. Quindi le nostre esperienze, okay, le nostre esperienze sono controllate da, o limitate, mettiamole così, le nostre esperienze di questa vita in termini di esperienze di felicità o di benessere sono limitate o sono il risultato diretto dalle proprie azioni compiute molto tempo fa, okay? Non in questa esistenza, è molto remota la cosa, okay? Quindi se guardiamo la sensazione, no? La sensazione abbiamo visto che è piacevole, spiacevole o neutro. La sensazione è proprio un'attività mentale che ha come funzione di sperimentare il karma dell'essere. Cosa significa? Significa che a qualsiasi sensazione piacevole o qualsiasi sensazione spiacevole che matura è un risultato dell'attivazione di un'impronte karmica. Questa, okay? Quindi anche quando siete in spiaggia, la spiaggia per esempio che fa caldo, eccetera, eccetera, e che c'è un venticello che si alza, che viene a carezzarvi il proprio viso, no? Questa sensazione di freschezza genera una sensazione piacevole. Questo è un karma positivo che sta maturando. Quindi vediamo che tutte le proprie esperienze sono il risultato diretto delle proprie azioni. Quindi quando le azioni sono altruiste, si chiamano bianche o virtuose, cioè sono altruiste, indirizzato agli altri, a prendersi cura degli altri, la generosità, tutte queste cose, la pazienza, allora il risultato delle azioni è congruo a questa attività mentale. Quindi c'è un'esperienza di felicità. Quando invece le azioni compiute sono motivate dall'egoismo, o dall'avversione, o dalla brama, o dalla gelosia, o dall'invidia, ok? Dalla malevolenza, del desiderio di ferire le varie persone, allora automaticamente i risultati sono di sofferenza. Allora più avanti c'è un capitolo che spiega tutte queste cose in dettaglio. Tutto questo per introdurre quello che viene chiamato la felicità temporale. Cosa significa la felicità temporale? È che vogliamo tutti essere ricchi, tutti essere aver fama, tutti aver successo in varie cose, okay? Però non lo possiamo, certi ce la fanno, ma altri non ce la fanno, eh? Tutti vogliono essere ricchi, ma non tutti lo sono. Tutti vogliono essere belli, ma non tutti lo sono. Tutti vogliono essere nascere in famiglie potente, ma non tutti ce la fanno, okay? Quindi dovuta a che cosa? Nel buddismo abbiamo la legge di causa-effetto, perché le persone in vite passate hanno creato le cause per sperimentare quel tipo di risultato. Quindi alla luce di questa comprensione, okay, e studiando in dettaglio le leggi di causa-effetto, possiamo in questa vita creare le condizioni per sperimentare quel tipo di risultati in vite future. Okay? Questa, diciamo, è la capacità che abbiamo. Questo si chiama la felicità temporale. Okay? è la felicità temporale, la felicità che possono sperimentare gli esseri umani, okay, o i deva nei reami superiori, okay, perché nel buddismo abbiamo anche i reami superiori. Tutto questo è temporale, nel senso che queste esperienze sono proiettate dal karma, e una volta che il karma si esaurisce, l'esperienza si finisce e si muore e si continua di nuovo. Okay? Quindi c'è un carattere molto limitato a questo, perché non passiamo al di là del processo di nascita e di morte, quindi separazione, tutto quello che va con quel tipo di forma di esistenza. Quindi abbiamo anche un altro potenziale. Quindi il primo potenziale è questo, no? Dovete capire che avete adesso nelle vostre mani la capacità di produrre qualsiasi condizione piacevole che volete per il vostro futuro, per la vostra propria esistenza futura. Avete la possibilità, volete essere ricchi, c'è il metodo per questo, questo si chiama la generosità. Volete nascere in famiglie potenti, c'è il metodo per questo, ci sono delle azioni per questo. Volete avere un corpo sempre in salute, robuste, prendetevi cura della salute degli altri, aiutate le persone ammalate. Okay? Questo è il modo di procedere. Okay? Quindi tutte queste vengono spiegate in dettaglio. Quindi abbiamo questo primo potenziale, che è la capacità di produrre la felicità futura che vogliamo, ma anche eliminare automaticamente tutte le esperienze spiacevoli che non vogliamo, visto che adesso avremo la possibilità di conoscere la fonte di quel tipo di sofferenza, la fonte di qual è la causa di quel tipo di sofferenza, qual è la causa di quel tipo di quell'altro tipo di situazione spiacevole. Sapremo, per esempio, no, vivere nella povertà, okay, questo è il risultato dell'avarizia, che okay, è l'avarizia o il rubare. Questo è come risultato che le persone vivono, sono depauperati, si dice in italiano depauperati, di mezzi di sostentamento. Okay? Quindi tutte queste cose il Buddha le ha spiegate. Quindi avremo la possibilità, cioè di sì, sia il nostro comportamento fisico, verbale, mentale è in accordo a questo, quello che viene chiamato la legge di causa-effetto, allora automaticamente eliminiamo le fonti di sofferenza future e creiamo le cause di felicità futura. Questa è una cosa molto semplice. Sì? Posso? Sì, vai. Hai detto che ci sono questi metodi per comunque raggiungere dei propri obiettivi, no? Cioè, ma comunque alla fine non sono degli obiettivi, non dico egoisti, però alla fine improntati su se stessi. Esatto, alla fine. Esatto. Però invece di concentrarti, è come se ci si concentrasse sugli altri per poi alla fine comunque arrivare a se stessi. Ok, sì, assolutamente. Il Dalai Lama chiama questo l'egoismo intelligente. Okay? Quindi vogliamo essere felici, no? Lo scopo è essere felice. Dobbiamo essere intelligente nel creare le cause di questa felicità. Questo ovviamente è un approccio del buddismo elementare, questo si chiama lo scopo di motivazione iniziale. Ovviamente non dobbiamo limitarci a questo, però ci sono persone che, dovuto a predisposizione, dovuto a attitudine, eccetera, sono interessate a questo. E il Buddha, qual era il suo scopo? Era rendere tutte le persone felici. Quindi ha insegnato per vari tipi di mente, vari tipi di predisposizione, il metodo per questa persona essere felice. Non è che ha dato un solo insegnamento per tutti, sarebbe come mettere lo stesso cappello sulla testa di tutti senza prendere in considerazione la dimensione di queste teste, no? Quelle persone sono varie, le menti sono varie, le predisposizioni sono varie, le aspettative sono varie. Sono certe persone che sono solo interessate a ottenere felicità, a un certo benessere materiale, eccetera, per il futuro. È giusto anche che abbiano la possibilità di farlo. Ovviamente non dobbiamo fermarci a questo livello. Perché non dobbiamo fermarci a questo livello? Questo dipende di livelli di maturazione della propria mente. Nel senso che questa mente deve maturare, crescere piano piano. Per adesso abbiamo questo concetto che sì, abbiamo il compagno giusto, con la casa giusta, okay? Con i soldi giusti in banca, possiamo essere felici. abbiamo questo concetto, no? L'abbiamo. Pensiamo che questo è il modo di essere felici, no? Ok, quindi finché la mente concepisce questo come essendo la felicità assoluta, devono essere dei metodi per ottenere questa felicità. Quindi per quel tipo di individui, con quel livello di maturazione della propria mente, il Buddha ha insegnato la legge di causa-effetto. Okay. Però per quelli che hanno un'intelligenza molto più acuta, e quindi una penetrazione una più grande penetrazione nella natura dei fenomeni, queste persone percepiscono anche queste situazioni di felicità mondana, chiamiamola così, felicità mondana, come essendo invece della natura della sofferenza. E queste persone ricercano il nirvana. Questo non sono assolutamente interessati in quel tipo di esistenza, quel tipo di benessere. Per loro è sofferenza. Quindi ricercano il nirvana. Il nirvana non è un posto, ok? Il nirvana è l'eliminazione o la pacificazione completa e totale della mente. Non c'è più ignoranza, che queste abbiamo parlato, no? Queste distorsioni della realtà, e quindi non ci sono più le attività come avversione, attaccamento, eccetera. La mente dimora in estasi qualsiasi le condizioni esterne, ok? Perché è completamente pacificata. E loro quindi ci sono dei insegnamenti che per queste persone, per fare in modo che ottengano il loro risultato. E questo è il secondo scopo, l'essere di motivazione intermedio. E poi abbiamo il terzo livello di motivazione, che una persona di ancora più grande acutezza mentale, cioè una mente molto più vasta, e questa persona non ha come unico desiderio di pacificare la sofferenza della propria mente, ma come desiderio di pacificare la sofferenza in generale. Quindi comprende, no? Che tutti gli esseri sono esattamente nella sua stessa condizione, ricercano la felicità, ma sperimentano solo problemi e difficoltà giorni dopo giorni. Realizza che tutti gli esseri hanno avuto questa connessione molto particolare che parlavamo all'inizio, no? Di essere padre e madre di vite passate. Quindi questa persona assume la responsabilità di portare questi esseri nello stato di felicità al di là del dolore, ok? E questo è il terzo livello di motivazione. È per questo obiettivo che la persona desidera ottenere quello che si chiama lo stato di Buddha. Buddha in sanscrito significa quello che si è risvegliato. Di che cosa? Del sonno dell'ignoranza. Okay? Questo è il significato di Buddha. Quindi dove la mente, diciamo, ottiene il suo pieno potenziale, diciamo che le varie oscurazioni sono state eliminate, le qualità portate proprio al consumo, e quindi in questo stato questa persona ha una capacità straordinaria a beneficiare gli altri, okay? A beneficiare gli altri. Questo è il suo scopo, e questo è il terzo livello di motivazione. E questo è, diciamo, quello chiamate il Mahayana, un grande veicolo. Però, okay, per poter entrare in questo terzo veicolo, prima bisogna addestrarsi nel veicolo intermedio, nelle contemplazioni o generare, cioè, ve la rifaccio, per generare l'attitudine dell'essere del terzo livello di motivazione, dobbiamo per prima generare l'attitudine dell'essere del secondo livello di motivazione. E per poter generare l'attitudine dell'essere del secondo livello di motivazione, dobbiamo prima generare l'attitudine dell'essere del primo livello di motivazione. È qualcosa di graduale, altrimenti è come cercare di costruire una casa cominciando col tetto. Non c'è niente, non c'è base, è impossibile, perché comunque questa realizzazione di questo terzo tipo di essere sono così profonde che hanno bisogno sono così andate al di là che hanno bisogno di questi vari sostegni, altre comprensioni che permettono queste grandi contemplazioni, queste grandi comprensioni e attitudini che esistono nelle menti di questi esseri. Okay? Quindi è qualcosa di graduale. Quindi all'inizio quindi si cerca di generare la motivazione, l'attitudine dell'essere di motivazione iniziale. Qual è la motivazione dell'essere di motivazione? Qual è l'attitudine dell'essere di motivazione iniziale? È una persona che più o meno si è distaccato un po' dalle apparenze di questa vita, okay? E incomincia a percepire la vita futura come più importante. Per lui in questa vita i dati sono già gettati, quindi adesso bisogna preparare la vita futura. Poi diciamo è la sua sfera mentale. Qui normalmente ci sono un po' di agitazione, eccetera, ma come? Non dobbiamo cercare di essere felici in questa vita, bla bla bla bla bla, bla, com'è possibile? Dobbiamo riflettere su di questo. Okay? In generale, il nostro unico obiettivo è la felicità in questa vita, okay? La felicità adesso, il vostro stato mentale automaticamente degenera e peggiora. È automatico, perché vengono automaticamente stimolate attitudini mentali come brama, attaccamento, desideri, eccetera. E più queste attitudini mentali vengono sviluppate, automaticamente anche l'avversione va sviluppata. Avversione per chi mette in pericolo l'ottenimento delle vostre felicità, eccetera, eccetera. Quindi questo non significa che avendo un obiettivo più elevato, non significa che il benessere di questa vita non viene anche ottenuto. È un prodotto secondario, nel senso che ricercando la felicità futura o ricercando la liberazione o l'ottenimento dello stato di Buddha per essere di più grande beneficio agli altri, automaticamente la persona si impegna in certi addestramenti, in certi comportamenti e fa certe contemplazioni e comprende, la sua saggezza si sviluppa. E questo ha come effetto di pacificare la mente. Quindi la felicità in questa vita viene ottenuta senza essere ricercata. Perché è così, no? Se abbiamo un'attitudine molto autocentrata, molto egoista, diciamo, nel buddismo si parla di mente autogratificante, automaticamente diventiamo molto attaccati alla felicità personale, no? Alla soddisfazione, a ottenere i vari piaceri per noi subito, automaticamente la mente diventa molto piccola, no? E automaticamente più c'è questo attaccamento, no? Alla soddisfazione immediata, più la mente è piccola e più automaticamente diventa disturbata e agitata ogni volta che qualcosa va a impedire l'ottenimento di ciò che è desiderato. Più siamo attaccati a qualcosa, più l'insoddisfazione del non ottenerlo è grande e più automaticamente la sofferenza è grande. Quindi alla fine riusciamo anche di un piccolo granello a fargli di sabbia a fargli una montagna. Soltanto per questo, dovuto al fatto di essere molto, molto, cioè, centrato, attaccato a questa cosa. Allora, se c'è un piccolo ostacolo diventa un grande problema. Quindi più c'è attaccamento, più c'è una mente, più c'è questa mente autogratificante, automaticamente più si soffre di più. È automatico, perché non so se avete notato, ma nella vita le cose non vanno mai come vogliamo, mai. Quindi più siamo attaccati a ottenere la soddisfazione, automaticamente più andremo a soffrire, perché niente gira come vogliamo che le cose girano. Quindi cioè è una questione di sopravvivenza a questo livello, no? Di sviluppare un'attitudine altruistica. E questa è sopravvivenza, perché a quel momento la mente non è più centrata su se stessa, okay? Sulla soddisfazione personale. e quindi non sperimenta più queste difficoltà di insoddisfazione o di frustrazione ogni volta che i suoi piccoli desideri vengono ostacolati. Non soltanto, ma quando c'è quel tipo di mente, no, autocentrata, la persona non sviluppa nessuna qualità. È impossibile sviluppare delle qualità, perché tutte le qualità nascono dall'altruismo. La pazienza, altruismo, è indirizzato verso gli altri. La generosità, l'etica del don danneggiare. Queste sono pratiche che si basano sugli altri. Invece, più siamo al centro dei nostri pensieri, automaticamente la mente degenera, le qualità degenerano, è impossibile svilupparle. Non soltanto, ma se pensiamo anche alla legge di causa-effetto, è impossibile sviluppare le cause della felicità futura, perché per ottenere il benessere materiale bisogna praticare la generosità, per ottenere i stadi superiori di esistenza bisogna rispettare gli altri, a prendersi cura degli altri per ottenere la salute, quindi a non uccidere, tutte queste cose, le vedremo più in dettaglio. Quindi è nel nostro interesse di sviluppare un'attitudine che si basa sugli altri, anche se lo facciamo all'inizio solo con un atteggiamento di ottenere il proprio benessere, perché dopo comunque questa attitudine diminuisce, viene fissurata, si dice fissurata, no? dalle varie comprensioni, no? Però ve lo dico così, no? Controllate, sì, effettivamente così. Più siamo centrati su di noi, più siamo attaccati al proprio benessere, più è l'opposto che ci capita. Siamo sempre più agitati, perché siamo sempre più, le persone si ostacolano la nostra felicità o ci impediscono di ottenere quello che vogliamo, quindi agitazione, quindi agitazione mentale significa sofferenza, questo è chiaro. Aversione, odio, okay? Per quelli che ci prendono le cose nostre o che impediscono semplicemente l'ottenimento di quello che desideriamo. Quindi questo è per rispondere alla tua domanda. Quindi vedi, cioè, è una cosa molto graduale, è una cosa molto vasta, ok? Queste cose vengono piano piano, devono mettersi insieme piano piano. Però tutto si basa sulla comprensione e l'analisi. L'analisi è molto importante. Ci sono altre domande? Ok, quindi abbiamo visto, siamo nel contemplare il grande significato di questa vita, il grande potenziale che abbiamo. Abbiamo visto, abbiamo un potenziale, il primo è l'ottenere, la capacità di ottenere la felicità temporale. Questa abbiamo, questa possibilità. Il secondo, l'abbiamo anche visto, abbiamo la possibilità non soltanto di essere in contatto con la felicità nella vita futura, ma possiamo separarci completamente della sofferenza la più minima e dimorare in uno stato di estasi permanente. Questo è lo stato del nirvana. Nirvana significa la cessazione. Cessazione di che cosa? Della sofferenza e delle sue cause. Quindi nel buddismo c'è una grande enfasi sulla sofferenza, si parla sempre della sofferenza, e le persone sono un po' depresse certe volte quando escono, ma invece non è così. Invece il buddismo è la tradizione la più ottimista possibile, perché non si accontenta di pacificare la sofferenza, ma di eliminarla completamente. Straordinario, possibile eliminarla completamente. Quindi è una tradizione molto ottimista. Okay? Quindi la sofferenza va riconosciuta, quindi è importante analizzare la propria situazione, è importante perché va riconosciuta. Okay? La sofferenza, in breve, sono che cosa sono? La sofferenza, allora, sono varie definizioni. C'è uno che mi piace molto. Questo è di Asanga, che è un grande pandita dell'India antica, che dice: la sofferenza sono gli esseri e il loro ambiente. Questa è la sofferenza. O possiamo metterla così: questa è la sofferenza, sono questi cinque aggregati. Quindi ciò che compone la persona, quella persona composta da 5 aggregati psicofisici. Abbiamo l'aggregato della forma, che è il corpo, e poi abbiamo la mente suddivisa in varie suddivisioni, per una cosa pedagogica, per analizzare varie funzioni della mente, ok? Quindi che cos'è la sofferenza? È questo corpo e questa mente. Questo corpo e questa mente sono la sofferenza. Ovviamente quando si parla di sofferenza abbiamo quello che conosciamo come la sofferenza universalmente conosciuto come le esperienze spiacevoli fisiche e mentali, però questo è abbastanza facile di riconoscere questa cosa. Poi abbiamo un altro livello di sofferenza che è la sofferenza del cambiamento. Questo mi piace molto, la sofferenza del cambiamento. È quello che per noi chiamiamo piacere o felicità. Quello che noi esseri umani oscurati, ignoranti, chiamiamo felicità o piacere per un essere che ha realizzato le quattro nobili verità, quindi una persona, questi yogi, le chiamano sofferenza del cambiamento. È necessario spendere un po' di tempo su questa sofferenza del cambiamento. Quindi sono le esperienze piacevoli contaminate che noi sperimentiamo. Allora, possiamo avvicinare la sofferenza del cambiamento in tre modi. Il primo modo è le esperienze piacevoli sono sofferenza perché non durano. È un modo di guardare la cosa, nel senso che tutto ciò che è piacevole non dura. Quindi alla fine rimaniamo sempre le mani vuote, con l'insoddisfazione e l'unico desiderio di riprodurre questa esperienza. Però non so se avete provato, ma non si riesce mai a riprodurre questa esperienza esattamente come l'abbiamo sperimentata. C'è sempre qualcosa che non va. Comunque, diciamo che tutto cambia, no? Tutto è impermanente, e tutto è in un costante mutamento. Quindi un'esperienza di felicità per natura, visto che dipende da cause e condizioni, che queste cause e condizioni non hanno la capacità di dimorare, automaticamente l'esperienza piacevole dura, tutto è impermanente, no? Tutto ciò che è prodotto è distrutto, tutto ciò che è accumulato verrà, come si dice, disperso, tutto quelli che sono stati, messi insieme saranno separati. Questa è la natura delle cose, e rifiutare questa natura è suicidarci automaticamente, perché è così, le cose sono così, quindi è necessario contemplarsi queste cose. Quindi queste varie esperienze di felicità che noi possiamo sperimentare alla fine non durano, quindi rimaniamo le mani vuote. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che è la natura propria dell'esperienza, no? La natura propria dei fenomeni composti, che un fenomeno quando sorge all'esistenza sorge con le proprie cause della sua distruzione. La felicità, quindi possiamo dire che la felicità è distrutta dalle sue proprie cause. Cosa significa? Significa che ciò che ci crea felicità oggi, domani questa stessa cosa ci crea sofferenza. Semplicemente perché tutto cambia, la propria mente cambia, la percezione delle cose cambia, ci stanchiamo di tutto. E poi anche se la propria percezione non cambia rispetto al fenomeno, il fenomeno stesso, dal momento che è prodotto, entra in un processo di disintegrazione continuo. Quindi a un certo punto questa cosa che funziona bene, a un certo punto non funziona più, ci crea sofferenza. La macchina che non parte la mattina, il computer che diventa molto lento, tutte queste cose creano sofferenza. Okay? Il proprio compagno o la propria compagna cambia, la nostra propria percezione anche cambia, no? Cioè, è così. Quindi mettetevi questo in mente, no? Che ciò che ci crea sofferenza oggi, domani ci crea sofferenza. È una regola. La felicità è distrutta dalle sue proprie cause. Questo è chiaro. Invece per la sofferenza non è osservato. la sofferenza non è distrutta dalle sue proprie cause. Ok. Poi il terzo modo di guardare queste cose è il proprio cambiamento dell'esperienza, nel senso che cos'è per noi la felicità? Per noi la felicità è semplicemente una diminuzione di una sofferenza precedente. Mi spiego. Per esempio, per noi, le persone in generale, gli esseri umani normali, si lavora, ok? Perché così d'estate andiamo al mare, ok? E andare al mare d'estate è percepito come la cosa in assoluto da fare, ok? Quindi andiamo al mare, ci sdraiamo sulla sabbia calda e ci sta abbastanza bene, però dovuta al fatto che comunque tutto ciò, tutto in questa esistenza è il prodotto dal karma, quindi delle contaminazioni dell'ignoranza, che questi cinque aggregati comunque sono contaminati, questa stessa esperienza di essere sdraiato al sole piano piano diventa un'esperienza di sofferenza, diventa sconfortevole, no? Quindi cosa facciamo? Ci alziamo e andiamo in acqua. Si sta bene in acqua, no? Si sta bene in acqua. Però se dimoriamo un po' troppo in acqua, la sofferenza del cambiamento diventa una sofferenza manifesta, cioè la sofferenza del freddo. Quindi cosa facciamo? Ci rimettiamo al sole di nuovo, si sta bene al sole, quindi rimaniamo al sole, eccetera. Però dopo un po' di tempo di nuovo diventa sconfortevole il sole, quindi ritorniamo in acqua. Ok, questo cosa sto illustrando? Questo esempio che è molto chiaro, questo è il modo in quale noi ci muoviamo nella vita. Nel senso che per noi ciò che viene è percepito come piacere, felicità, è semplicemente una diminuzione di una sofferenza precedente, di uno sconforto precedente. Non è riconosciuto come sofferenza, come sconforto. C'è una specie di ottusità mentale a questo livello e siamo così felici semplicemente di entrare in una situazione nuova che ci fa dimenticare questa situazione precedente, no? Quindi la sofferenza di essere, cioè siamo lì sulla sabbia, a un certo punto c'è la sofferenza del caldo che diventa manifesta, quindi cosa facciamo? Entriamo nell'acqua, la sofferenza del caldo diminuisce dovuta a questa sensazione di freschezza, però a un certo punto la sensazione di freddo, la sofferenza del freddo sorge, quindi dobbiamo uscire e metterci al caldo, c'è la sofferenza del freddo che diminuisce e c'è l'esperienza, è così, quindi è questo, è tutto la nostra vita è sofferenza del cambiamento, nel senso che bere della Coca-Cola fresca d'estate è piacevole soltanto si fa caldo e sì abbiamo sete, altrimenti quando fa meno 30 e che non abbiamo sete, bere la coca fresca non è felicità. Però la nostra mente, quindi il problema è che la nostra mente va a proiettare su queste varie situazioni, vari oggetti, no? Felicità, ok? E lavoriamo per ottenere questi vari prodotti. Però questi vari prodotti, il problema è che non ci possiamo appoggiare su questi vari prodotti o varie situazioni o persone per ottenere la vera felicità, perché noi vogliamo una vera felicità, no? Una felicità duratura, qualcosa che dura. Non vogliamo semplicemente una mera diminuzione di uno sconforto precedente. Cioè possiamo fare molto meglio di questo, molto meglio, possiamo ottenere la liberazione. Quindi dobbiamo riflettere su queste cose, ok? Quindi andare a mangiare la pizza con gli amici il sabato sera va bene, è piacevole, ma non è una vera felicità, è semplicemente felicità perché ci annoiamo un po', vogliamo vedere gli amici, c'è la sofferenza di sentirsi un po' da solo, di annoiarsi, non saper cosa fare, allora ci incontriamo con gli amici e andiamo a mangiare insieme, okay? Però a un certo punto, no? gli amici, vogliamo essere da soli. E si sta bene anche da solo, però dopo un po' di tempo essere da soli è un po'... vogliamo vedere gli amici di nuovo, è così, è sempre così, no? Quindi essere in coppia è semplicemente una diminuzione della sofferenza della solitudine, okay? E poi la separazione è la diminuzione della sofferenza di essere in coppia, okay? È tutto così. Cioè, avere tanti... cioè, comprare tante cose, no? Può sembrare una cosa di molto, molte, di qualcosa che può essere desiderato, no? Avere la capacità di comprare tutto quello che vogliamo, no? Però è una sofferenza, è la diminuzione della sofferenza dell'insoddisfazione. Non sarebbe meglio non avere insoddisfazione? No? Sarebbe meglio, no? C'è questa possibilità, no? Di non avere insoddisfazione. Quando avremo finito di proiettare felicità su tutti questi vari oggetti e fenomeni, allora l'insoddisfazione è finita. È come, no? Quando abbiamo, come si dice, quando le zanzare ci vengono a pungere. Quindi eventualmente fa bene grattarsi un po', no? Fa bene. Non sarebbe meglio non aver niente, non aver zanzara che viene a pungersi? Si dice così, a pungersi? Certo che sarebbe meglio. Nello stesso modo sarebbe molto meglio non aver distorsione della realtà nella propria mente che ci proiettano queste sensazioni, queste immagini di attrattività o di sgradevolezza di un lato o dell'altro, perché è questo, no? Quando ci muoviamo, non so se osservate la vostra mente, io certe volte ci provo, soprattutto quando vado in città, per esempio. Allora la mente è così, no? Questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace. Cioè, è continuo, è questo, questa attività continua, è incredibile. Quindi la felicità, ve lo dico, la felicità con questo stato di mente, adesso che abbiamo, è impossibile. Quindi ci deve essere un riaggiustare la propria mente, perché nello stato attuale delle cose l'unica cosa che ci aspetta è una più grande sofferenza istante dopo istante. Okay? Quindi questa è la sofferenza del cambiamento. Quindi ricordatevi, quindi non sto dicendo che non dovete più andare a mangiare la pizza con gli amici, non dovete più andare in spiaggia, non dovete più bere la coca fredda d'estate. Semplicemente state consapevole. Questa è la verità della sofferenza. Questo è piacevole semplicemente perché c'è una sofferenza dietro, no? Perché c'è la sofferenza del freddo, allora vogliamo il caldo. C'è la sofferenza della sete, allora vogliamo bere. C'è la sofferenza della fame, allora vogliamo mangiare. C'è uno sconforto, e quando questo sconforto trova qualcosa per calmarsi, allora c'è il benessere. E non è il vero benessere. Perché? Perché non è il vero benessere? Perché se qualcosa è il benessere, più si utilizza, più il benessere aumenta. Normale, perché è nella sua natura di essere il benessere, di essere piacevole. Invece tutte queste cose, no? Come il mangiare, come gli amici, come bere, eccetera, provate a esagerare. Vedrete se è veramente piacevole. Mangiare quando non avete fame non è piacevole. O mangiare, certe volte l'equilibrio è anche molto... Cioè, mangiamo, a un certo punto, oh, stiamo male. Quindi il mangiare non è nell'entità della felicità. Se mangiare era nell'entità della felicità, più si mangia, più si sta felice. Se bere è nell'entità della felicità, più si beve, più si sta felice. Se essere al sole è nell'entità della felicità, più si sta al sole, più si sta bene. Non è il caso. Quindi questo ci mostra che questi vari sopporti sulle quali noi andiamo a cercare la felicità sono infatti nella natura della sofferenza. Perché? Perché esattamente come il fuoco, no? Il fuoco, quando si mette la mano dentro, la sofferenza aumenta esponenzialmente. Aumenta esponenzialmente. Questi fenomeni, più ci appoggiamo su, più la sofferenza aumenta esponenzialmente. Quindi la loro natura è sofferenza, non è felicità. Ecco perché si chiama la sofferenza del cambiamento. Una cosa molto importante sulla quale dobbiamo riflettere. E poi c'è questo terzo livello di sofferenza che è importante anche da mettere la mano. Questo è molto più sottile. È la sofferenza onnipervasiva di composizione. La sofferenza onnipervasiva di composizione è semplicemente questi cinque aggregati che abbiamo. Questo che costituisce l'individuo, la mente e il corpo sono sofferenza onnipervasiva di composizione. Perché diciamo, basta, diciamo, siamo sempre al vertice, ok? Quindi dovuto a avere questo corpo e questa mente, siamo sempre al vertice di sperimentare una sofferenza. basta che delle condizioni esterne o interne si presentano e noi soffriamo, anche se non lo vogliamo, soffriamo. Basta che la temperatura scende da qualche gradi e si soffre, basta che pensiamo a un'esperienza spiacevole, a delle parole che ci ha detto qualcuno, quindi una sempre vibrazione dell'aria e la nostra mente disturbata per settimane, per una vibrazione dell'aria. Quindi basta a vedere qualcosa che non ci piace e ci soffre, basta vedere qualcosa che ci piace e soffriamo perché non lo possiamo ottenere, eh? La nostra mente è disturbata. Quindi in questa condizione, no? Siamo infatti in una situazione molto precaria, dove difficoltà, sofferenze, esperienze spiacevoli possono sorgere a ogni istante, e quelli veramente pesante, no? Pesante. Pensate a un'esperienza di sofferenza estremamente acuta che avete avuto nella vostra vita, okay? E vedrete che forse non c'è nessuna certezza per non fare in modo che si ripresenta di nuovo. Può comunque ripresentarsi di nuovo. Quindi la sofferenza, ogni pervasiva di cambiamento, quindi è questo corpo che degenera istante dopo istante, no? Abbiamo l'invecchiamento, eccetera, quindi gli organi che crolleranno uno dopo l'altro, e questa mente, che è molto fragile, così dura, però molto fragile, è un paradosso, basta delle parole e la mente soffre per settimane, delle semplici parole. Quindi è stato molto precario. Quindi in questa situazione, il desiderare la felicità è un po' inopportuno, non è molto realista la cosa. Quindi, però abbiamo il potenziale per essere felici, però bisogna completamente cambiare questa mente e la sua dinamica e il suo modo di funzionamento. È molto importante per noi e anche per gli altri, perché con quel tipo di mente noi andiamo nella società, ma siamo un pericolo per gli altri a un certo livello, non so se avete notato, eh? Ma naturalmente la nostra mente ha tendenza a criticare, a lasciare delle parole che feriscono gli altri, cioè, e in quel modo si compie anche la propria sofferenza. Quindi questo è per la sofferenza in breve. Noi che residenti andremo in dettaglio in queste cose più avanti. Quindi il secondo potenziale, il benessere temporale, il benessere ultimo, che è la liberazione, l'abbiamo appena visto, è questo. Liberarsi, quindi, cosa significa il nirvana? Il nirvana significa finirne con questi cinque aggregati contaminati, e avere quindi una mente non contaminata, dove non c'è ignoranza, e un corpo che non è nella natura della sofferenza. Questo è possibile. Il secondo divisione di questo benessere temporale, ultimo, è lo stato di Buddha. Quindi abbiamo la capacità di fare che questa mente diventi una fonte di felicità per gli altri. Questo è fantastico. Fantastico. Non c'è niente di più elevato di questo. Potete cercare, non c'è. La nostra mente può diventare una fonte di grande felicità per noi stessi e per gli altri. Abbiamo questo potenziale. Poi possiamo anche, non viene menzionato quindi in questo paragrafo, però possiamo vedere, possiamo anche contemplare, questo per gli studenti, possiamo contemplare anche il grande significato, il grande valore di questa esistenza in ogni istante, nel senso che questi 18 attributi della preziosa rinascita umana non sono una cosa qui nello spazio, sono presenti in ogni istante. In ogni istante, quindi in ogni istante abbiamo la capacità di produrre le cause della felicità futura, di produrre le cause della liberazione o di produrre le cause dello stato di Buddha. Abbiamo questo potenziale a ogni istante possiamo creare grande quantità di meriti, okay, che ci permettono di questa energia virtuosa, che ci permettono quindi di ottenere felicità, di ottenere le varie comprensioni del sentiero. Abbiamo la capacità anche in pochi istanti in tempo breve di purificare grande quantità di karma negativo accumulato. Quindi questo è, dobbiamo riflettere su queste cose, abbiamo questo potenziale. Quindi l'essere umano, come viene menzionato nel testo, è qualificato da questa libertà, dovuta al fatto che non è sopraffatto da una sofferenza estremamente acuta e incessante, come in certe sfere di esistenze, non è neanche, la sua mente non è neanche coinvolta in un'esperienza di grande felicità per molto tempo, okay? Come può essere sperimentata in altre sfere superiori, ma oscilla tra queste due. C'è esperienza di felicità e esperienza di sofferenza, certe volte ci sono anche delle esperienze neutre. Quindi questo dà una grande libertà alla mente umana, una grande libertà, perché quando la mente è sopraffatta della sofferenza non c'è spazio per pensare a qualcosa di più elevato, che è l'immediata separazione dall'esperienza di difficoltà. E nello stesso modo, quando tutto va bene, quando c'è grande felicità, non c'è il desiderio di impegnarsi in un sentiero spirituale e vedere cose più elevate. Quindi la mente umana, l'esistenza umana è un supporto a per entrare inizialmente su un sentiero è il migliore. Per entrare inizialmente su un sentiero è il migliore. Quindi si deve riflettere in quel modo, come dice il testo, no? Contemplare, poiché essa completa gli stadi elevati di un buon, si mediti fin a quando si genera una gioia simile a quella di un mendicante che trova un tesoro. Attraverso il contemplare, ciò che ho ottenuto è di gran lunga superiore a un gioiello che soddisfa ogni desiderio. Ma questo mi potrete dire, ma no. Non può essere superiore a un gioiello che soddisfa ogni desiderio, no? Perché c'è questa, sono in certe mitologie, no? C'è questo gioiello che si mette davanti, si pensa e la cosa accade. Il problema è che il gioiello che soddisfa ogni desiderio solo di questa vita. Solo di questa vita. Non soddisfa, il gioiello non ci porta alla cessazione della sofferenza. Il gioiello non ci porta alla capacità di portare gli altri al di là del dolore. Okay? Non fa la sofferenza, non fa la felicità delle vite future. Quindi è ben quello che abbiamo è ben superiore a un gioiello che soddisfa ogni desiderio. Okay? Quindi dobbiamo meditare e riflettere su queste cose fino alla generazione di questa gioia, di questa grande fortuna, no? Grande fortuna. E questo è l'oggetto di meditazione sul quale porre la concentrazione. Okay? Quindi c'è sempre, no, nell'Amrin, questa parte analitica, okay? La parte analitica che serve a generare comprensione sull'oggetto, dell'oggetto meditato, a una certa sensazione, e dopo c'è la concentrazione su quel che viene compreso o realizzato. Quindi sempre questi due aspetti. Ci sono delle domande? No? Sorprendente. Di solito c'è un sacco di domande, cioè le persone si agitano. Quindi ha senso quello che vi ho raccontato, spiegato fin d'ora? Qualcosa di nuovo? Ha molto senso. Ok, quindi lo vedete. La cosa va elaborata. Questo c'è, quindi ascoltate qualcosa qui, è importante, però dovete pensarci, dovete elaborarlo, vedere se è veramente così, e fare il ponte nella vostra vita, no? Sempre il ponte nella vostra vita di tutti i giorni, cioè verificare questa cosa nelle vostre esperienze, altrimenti l'impatto è molto ridotto. Io sì, ma sì. Però riguarda un po' un discorso precedente, rispetto al fatto che nella sofferenza del cambiamento, lei ha detto che poi il livello superiore che è raggiungere poi il nirvana, l'illuminazione, ti porta anche a risolvere la sofferenza dei cinque aggregati. Sì, la condizione proprio. Vuol dire che riesce anche a superare il dolore fisico. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più dolore. Questo è il primo livello di sofferenza, no? Che è quello che si chiama la sofferenza della sofferenza, che sono tutti i dolori fisici e mentali riconosciuti universalmente, dal mal di testa al mal di schiena, allo stato di angoscia, di paura, di depressione, di tristezza, tutte queste esperienze che sono qualificate di sofferenza a un livello universale. Quindi questo è non siamo entrati nella spiegazione perché sarebbe delle divisioni e poi sarete molto depresso se andiamo in questo, quindi non vogliamo che questo accada stasera, quindi l'abbiamo menzionato. Però sì, nello stato del nirvana non c'è più la minima sofferenza fisica e mentale. Perché la sofferenza sorge? Semplicemente perché questo corpo e questa mente è il risultato dell'ignoranza, il risultato dell'attività dell'attaccamento, il risultato dell'attività dell'avversione, il risultato di tutte queste attività, no? È il karma che produce questo corpo e questa mente. Il karma che viene effettuata è sempre fatta all'interno dell'oscurazione rispetto al modo di dimorare delle cose. Quindi automaticamente la sua compone delle caratteristiche defettuose, semplicemente perché le sue cause sono defettuose. Quindi una volta che l'ignoranza viene eliminata, le azioni sono compiute all'interno della comprensione perfetta e totale della realtà. Quindi ciò che producono queste azioni non hanno più questa caratteristica defettuosa. Ecco perché il sopporto fisico, tra virgolette, che esiste nel nirvana, non è più nella natura della sofferenza. E la mente neanche, perché è stata sradicata, dice sradicare? Sì. L'origine della sofferenza. Quindi questa è la seconda cosa, no? Quindi la sofferenza deve essere riconosciuta, ok? Riconosciuta, e l'origine abbandonata. Qual è l'origine della sofferenza? Sono il karma e l'afflizione mentale. L'afflizione mentale, no? L'ignoranza, attaccamento, odio, queste cose, ok? La cessazione deve essere attualizzata, la cessazione è nirvana, e per far ciò il sentiero va praticato. Queste sono le quattro nobili verità. Quindi, come dicevo all'inizio, c'è una grande enfasi sulla sofferenza nel buddismo, perché? Perché può essere eliminata. Sì, la sofferenza non poteva essere eliminata, allora cioè, non serve a niente di parlarne. La mettiamo di qua, okay? E cerchiamo di sopravvivere come possiamo. Però, visto che può essere eliminato, è importante identificare. Perché quando viene identificata, la persona desidera dopo separarsi di questa cosa, no? È come se uno non è consapevole di essere ammalato, non ha il desiderio di andare a prendere la cura e di ritrovare uno stato salutario. Quindi è esattamente la stessa cosa. La sofferenza va riconosciuta, esattamente come la malattia va riconosciuta, e l'origine di questa sofferenza va eliminato, perché può essere eliminato. Quindi ecco perché c'è. Ci sono altre domande? Ho visto delle mani a un certo punto. Finito? Oh, sì. Non c'era una signora? Sì, no, per me è fuori tempo, cioè rientra appunto nella discussione. No, mi chiedevo appunto quanto poteva essere importante, se all'inizio dobbiamo prendere consapevolezza della sofferenza, no? Focalizzarla, capirla, addentrarsi, no? Sì. Molto importante. Anche se costa perché anche se non ci addentriamo fino in fondo, sicuramente dobbiamo fare i conti di quello che stiamo analizzando, di noi stessi. No, è importante. Come risonanza interna. Sì. E secondo me è molto importante. Io ho la sensazione che si debba proprio vedere. No, è chiaro. E ho anche la sensazione che certe sofferenze, certe ferite importanti alla vita non siano. Allora, viviamo questa vita, questo sì. Allora, quando si parla di entrare nella sofferenza, eccetera, non sto dicendo di entrare e analizzare le varie ferite psicologiche che uno ha potuto sperimentare nella vita. Non sto dicendo questo. Questo sì. Non sto dicendo questo perché questo è il lavoro della psicologia. Ok, della psicologia. Il buddismo incomincia dove la psicologia si ferma, per essere brevi. Okay? Quindi la sofferenza che va analizzata nel buddismo è la condizione dell'essere all'interno di questa forma di esistenza. Quindi ci sono delle sofferenze particolari, come essere sistematicamente, per esempio, se prendiamo l'essere umano, alla sofferenza della nascita, la sofferenza dell'invecchiamento, la sofferenza della malattia, la sofferenza della morte, la sofferenza dell'insoddisfazione, la sofferenza dell'essere separato di ciò che desidera o di ciò che ama, la sofferenza di essere sempre in contatto con ciò che non desidera, la sofferenza, ci sono vari suddivisi, e questo che va contemplato, più la contemplazione della sofferenza del cambiamento e la sofferenza onnipervasiva di composizione. Perché? Per desiderare, per far sorgere questa mente che dice basta. Perché si realizza che tutte queste sofferenze che caratterizzano, sofferenze sono generiche, che caratterizzano l'esistenza, sono sperimentate da un individuo da tempi senza inizio e saranno ancora sperimentate, ancora per tempo senza fine, finché la persona non si decida di realizzare il modo di esistere dei fenomeni. È un processo, queste varie sofferenze è un processo che dura da senza inizio e che ancora non ha fine per noi, per adesso. Finché non decidiamo di impegnarci in questo sentiero, nel sentiero che conduce a questa liberazione, queste sofferenze non hanno fine. Quindi ecco perché la contemplazione della sofferenza è necessaria per far prendere coscienza dell'ampiezza, se ne dice l'ampiezza? L'ampiezza della sofferenza e far generare un desiderio di non più sperimentare queste cose, di voler uscire. Questo si chiama la mente di emersione definitiva, perché è una mente che desidera emergere del samsara, dell'esistenza ciclica. Queste sofferenze caratterizzano l'esistenza ciclica. Quindi queste sono le contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio. Quindi c'è una grande, di solito si va per giorni, settimane in queste varie sofferenze di qua, sofferenze di là, cioè alla fine le persone sono oh, ok, però è molto importante fare, molto importante, okay. E l'altro aspetto che è importante di meditare la sofferenza, la propria sofferenza prima, okay, è che se non realizziamo lo stato nel quale siamo, diventa difficile dopo di generare la compassione per gli altri, che sono in uno stato molto più molto peggiore del nostro. Quindi senza la contemplazione, senza la comprensione della sofferenza proprio, è difficile generare è impossibile generare la grande compassione. E quindi è impossibile desiderare liberare gli altri della sofferenza, se uno per primo non desidera essere libero della propria sofferenza. Quindi vedete come tutto si basa proprio, sono dei scalini che si appoggiano uno sull'altro. Quindi sì, assolutamente, la sofferenza è molto importante di contemplarla. Ci sono altre cose, altre domande? Ok. Quindi continuiamo. Allora, dopo abbiamo il contemplare le difficoltà di trovare le libertà e ricchezze. Quindi adesso vediamo la contemplazione. Forse mi fermo. Fino a che ora dobbiamo andare avanti di solito? Di solito... Come? Ancora un attimo. Ancora un attimo, vabbè, facciamo un altro. Allora, contemplare la difficoltà di trovare libertà e ricchezze. Ok? Libertà e ricchezze sono questi 18 attributi che qualificano la preziosa rinascita umana. Okay? Allora, per contemplare abbiamo tre contemplazioni. Primo, in termini tramite analogie. Secondo, dal punto di vista delle cause, e terzo, dal punto di vista dell'entità. Okay. Quindi ci sono delle persone che hanno il testo completo, sono delle persone che non hanno il testo completo, ma hanno solo i titoli. Solo i titoli, quindi sì. Allora, puoi leggere, per favore, grazie. Allora, siamo... Ecco. Ma il modo in cui Sì. Okay. L'impegnarsi nelle attività di Bodhisattva asserisce. Per queste stesse ragioni, il Bhagavan ha affermato che è molto difficile ottenere la preziosa rinascita umana, come lo è per una tartaruga inserire il collo in un gioco alla deriva sopra il grande oceano. Si racconta che, nel caso che un gioco dorato con un coro venga sospinto alla deriva dal vento nel grande oceano, vale a dire sballottato in tutte le direzioni, per una tartaruga cieca che giunge alla superficie dell'acqua una volta ogni 100 anni, essa non avrebbe molte possibilità di inserire il proprio collo in quel buco. Un'analogia più chiara di questa è quella che considera una manciata di piselli che viene gettata su un muro. Sarebbe estremamente raro che questi si conficcassero in essa. Si pensi, questo corpo umano di libertà e ricchezze è simile ai piselli che si conficcano nella superficie del muro. Si mediti fino a quando l'analogia ed il suo significato non si uniscono definitivamente con il proprio confine. Grazie. Quindi qui l'avevamo già accennato l'ultima volta questa cosa, no? Il modo di riflettere tramite analogia. Quindi il Buddha, quando prendeva in considerazione le persone che hanno ottenuto la preziosa rinascita umana, e qui insisto sulla parola preziosa rinascita umana, perché non è una rinascita umana qualunque, ha 18 attributi particolari come i poteri fisici che funzionano, i poteri sensoriali che funzionano, la mente chiara, incontrare l'insegnamento del Buddha, incontrare dei lineaggi puri, eccetera, una mente che ha interesse in queste cose. Quindi sono le avete nei testi, le potete guardare. Quindi dice che ottenere quel tipo di esistenza con questi 18 attributi che maturano simultaneamente in una vita è estremamente raro. Ecco, è raro, per illustrare, spiega ha dato in un sutra questa analogia della tartaruga. Immaginate quindi una tartaruga cieca, ok? Quindi cieca perché questa la nostra mente è velata rispetto al modo di esistere dei fenomeni, okay? Quindi siamo ciechi, abbiamo quello che viene chiamata la cataratta dell'ignoranza nei trattati, viene chiamata così, ok? Immaginate che vive quindi nell'oceano, l'oceano è per l'oceano dell'esistenza, okay? In maggior parte dimora nel fondo dell'oceano, questo significa che dimora nei livelli più bassi dell'esistenza, okay? Ogni 100 anni riesce a andare in superficie, quindi ogni 100 anni, cioè, significa che molto raramente il karma matura per ottenere una rinascita superiore. Okay? E tramite la rinascita superiore stiamo parlando della preziosa rinascita umana, che viene paragonata a un pezzo di legno con un buco che galleggia al superficie di questo oceano. Quindi le probabilità per questa tartaruga cieca che va in superficie ogni 100 anni, che quando va in superficie passa la testa nel buco del pezzo di legno, il Buddha ha dichiarato che le sue probabilità sono superiori a il nostro ritrovare di nuovo a una preziosa rinascita umana, cioè una rinascita umana qualificata da tutte queste varie condizioni che abbiamo. Quindi questo va riflettuto. Ok, adesso vediamo perché. In generale, per ottenere una mera trasmigrazione felice è necessario proteggere perlomeno una delle moralità. In particolare, per ottenere un corpo umano dotato di libertà e ricchezze, poiché viene detto dalla generosità le risorse, dalla moralità la felicità, è necessario stabilire la base per mezzo della moralità completamente pura, accompagnare questa con la generosità e così via, e congiungerle con delle preghiere immacolate. Dal momento che oggigiorno, come questa causa, i praticanti sono molto rari, la realtà è che il risultato, un corpo umano dotato di libertà e ricchezze complete, è anch'esso raro. Non solo ciò, poiché le trasmigrazioni negative vengono sperimentate come la maturazione della non virtù, perfino il manifestare una semplice mente virtuosa è difficile da generare. Similmente, anche gli dèi sono indolenti per via della felicità della stabilizzazione meditativa e degli oggetti desiderabili. Gli esseri umani, anch'essi, non ascoltano neppure il mero suono della virtù in luoghi dove il Dharma non è stato diffuso. E se questi luoghi vengono presi come aventi la misura di un cumulo di orzo, i luoghi in cui il Dharma si è diffuso appaiono essere della misura di un singolo chicco di rame. Al presente, tra la quantità paragonabile ad un insieme di molte migliaia di esseri, quelli che promettono di proteggere la moralità sono molto pochi. Anche tra costoro, quelli che hanno tutte e tre le cause delle eccellenze complete sono simili a stelle che appaiono durante il giorno. Per cui, quando il conoscitore che è rivolto all'esterno osserva all'interno di se stessi, sono molto pochi quelli che dalla mente oscillante, che pensa io praticherò il Dharma, stanno suscitando un numero di virtù che garantiscono una mente felice. Per via della causa di accumulare incidentalmente negatività e non virtù, se non si assume una ferma posizione in questa vita presente, da ora in avanti non si otterrà un corpo umano. Pensando la mente che spera di ottenerlo simile all'avere piantato della senape bianca in primavera, prevedendo il suo raccolto in autunno, è sciocca. Si mediti fino a quando questa esperienza sorge in modo definitivo. Ok, grazie. Quindi, in termini delle... Quindi abbiamo osservato la difficoltà di ottenere la preziosa rinascita umana in termini di analogia, abbiamo passato velocemente. Adesso guardiamo un po' più in termini di cause. Qual è la causa delle rinascite superiori? Okay? Quindi nel buddismo, avete capito, tutto dipende dalle proprie azioni. Quindi le rinascite superiori, come quella degli esseri umani, sono risultati di azione particolare. Queste azioni particolari sono il mantenere un'etica. Il mantenimento dell'etica ha come risultato le rinascite superiori, di proiettare l'individuo in rinascite superiori. Quindi ecco perché viene chiamato uno, di cui dice, almeno uno delle moralità. Nel buddismo si contano tre tipi di moralità. Abbiamo la moralità di liberazione individuale, okay? La moralità del bodhisattva e la moralità che esiste nel tantra. Quindi possiamo avere una divisione in due, che abbiamo una moralità, diciamo, naturale e una moralità proclamata, ok? Quindi la moralità naturale è semplicemente evitare di compiere delle azioni che naturalmente sono negative, sono di danno a se stessi e agli altri, e che naturalmente dalla loro entità producono esperienza di sofferenza, come l'uccidere, per esempio, no? L'uccidere è un'azione non virtuosa che naturalmente produrrà un'esperienza di sofferenza per la persona nel futuro. Poi ci sono le azioni che diventano negative dal punto di vista della proclamazione. Per esempio, una persona come me che decide di assumere l'etica del monaco. Okay? Allora, l'etica del monaco, ci sono tot di voti, e avendo promesso di mantenere questi voti, quando passo al di là della mia etica, divento qualcosa di negativo, anche se normalmente non lo è. Quindi questa è una moralità proclamata. Quindi per ottenere una rinascita superiore, bisogna mantenere la moralità, una delle due moralità, sia quindi naturale sia proclamata. La naturale è inserita all'interno della proclamata, okay, comunque. Quindi almeno quindi quando si studia la sezione sul karma, viene spiegato qual è la moralità naturale, quali sono le azioni da evitare, quali sono il loro risultato specifico, ok? Quindi prima condizione per ottenere la preziosa rinascita umana è l'etica, per l'esistenza superiore in generale è l'etica. La seconda devono essere associata a pratiche come delle sei perfezioni, come la generosità, la pazienza, lo sforzo, entusiasmo, eccetera, particolarmente la generosità. Okay? E il tutto, queste virtù che vengono accumulate, questa energia che viene accumulata, deve essere sigillata dal praticante da preghiere di aspirazione, nel senso che deve dedicare questa energia virtuosa all'ottenimento di una preziosa rinascita umana per continuare la sua pratica del Dharma. Okay? Queste sono le tre condizioni per l'ottenimento di una preziosa rinascita umana. Okay? Per semplicemente l'ottenimento di una rinascita umana basta praticare la moralità. Okay? Se la moralità è media, si ottiene una rinascita come, come essere umano. Sì, la moralità è ancora superiore, ok? Allora si ottiene stati ancora superiori a quelli umani. Comunque la moralità, quando dico media o intermedia, eccetera, è comunque l'abbandono, il minimo è l'abbandono di tutte le azioni non virtuose. Quindi è l'abbandono delle, come l'uccidere, il rubare, tutte queste cose, cioè il ferire le persone con delle parole, il separare le persone con parole, tutte queste cose, no? La malevolenza, la brama, tutte queste cose vanno eliminate. E per noi è molto difficile. È molto difficile. Si vediamo, e quindi è praticare la virtù per produrre le condizioni cooperanti. Per esempio la generosità va praticata come condizione cooperante a questa rinascita superiore, perché la generosità dà come risultato il benessere materiale. Quindi la semplice pratica della virtù proietta un'esperienza superiore, però non garantisce che i mezzi di sostenimenti sono abbondanti. Ecco perché ci deve essere la pratica della generosità. Quindi per noi è molto difficile tutto questo. Sì, vediamo invece come è naturale per noi la non virtù, come è naturale, e come nei suoi aspetti è completa e forte. Cioè, sì, prendiamo quelli che gli studenti qui avranno familiarità con questa cosa, no? Quanto è difficile generare una motivazione sincera, completa. Quanto è difficile avere la concentrazione durante tutta la pratica e durante l'ascolto, e quanto è difficile anche dopo, alla fine, avere una dedica ben concentrata. Quindi vediamo che la virtù, no? Per avere un karma completo ci deve essere quindi la motivazione, ci deve essere l'azione, ci deve essere, cioè, la preparazione e la conclusione. In quel modo abbiamo un karma completo. E vediamo invece con la non virtù quanto è più facile. Nel senso che sì, qualcuno ci dice qualcosa all'ufficio, no, al lavoro, ci dice qualcosa di spiacevole, una critica così. Oh. La sera ci motiviamo, già incominciamo a motivarci la sera per rispondere il giorno dopo, no? Quindi siamo già ben motivati la sera, abbiamo anche la scelta, no? Cioè l'applicazione perfetta, perché sappiamo esattamente cosa andiamo a rispondere a questa persona per ferirlo nel modo il più giusto, il più perfetto. Quindi cioè la mente è straordinaria, ok? E una volta che questa cosa è fatta, no? Quindi c'è un rallegrarsi, un rigioire dell'attività non virtuosa, che è fantastico. Quindi nella non virtù l'applicazione è perfetta. Nella virtù invece dobbiamo porre molto sforzo. Questo perché, non perché uno è più difficile dell'altro, semplicemente dovuto alla familiarità. È un problema di familiarità. Visto che abbiamo familiarità con la non virtù, allora le cose sorgono molto facilmente, con una bella forza, le cose sono ben chiare. Invece la virtù ha poche familiarità, quindi dobbiamo trascinare queste cose, dobbiamo forzare la cosa. Ed è difficile. Quindi anche se vediamo la nostra mente, no? La nostra mente naturalmente scende verso il basso, naturalmente. Nel senso che naturalmente quando si genera attaccamento, avversione, orgoglio, senza sforzo, cioè basta, cioè la situazione, cioè il fuoco d'artificio. Quindi naturalmente abbiamo la mente. Cioè, invece se guardiamo in una giornata, no? Prendiamo una giornata, quanti pensieri altruistiche abbiamo avuto in questa giornata, quanti istanti di amore, di compassione abbiamo avuto all'incontro degli esseri, quanti individui abbiamo cercato di aiutare in questa giornata. Difficile, difficile. Quindi questo vi spiega che è difficile di ottenere una rinascita superiore, difficile. Quindi c'è uno sforzo che va fatto, abbiamo il potenziale, dobbiamo metterci la mente intorno, cioè, e andare avanti. E non soltanto, ma il semplice fatto di di smettere di compiere delle azioni non virtuose, che già è fantastico, ma non ci garantisce il fatto che otterremo una rinascita superiore, non ci garantisce, perché abbiamo accumulato della negatività da tempi senza inizio, che aspettano di maturare. Quindi ci deve essere anche in parallelo al fermare il flusso di sofferenza, di causa di sofferenza, dobbiamo anche neutralizzare quello passato. Quindi sono delle tecniche, sono delle pratiche particolari che hanno il potere di neutralizzare queste cose. Quindi questo quando andremo nel capitolo sul karma, okay, vedremo tutte queste varie contemplazioni. Ok. Quindi quindi molto molto difficile il scegliere di avere un'attitudine etica è molto difficile, cioè già è molto raro, diciamo così. È molto raro, non è comune di incontrare delle persone che hanno scelto di vivere una vita etica. Etica significa non danneggiare gli altri, con la parola, col corpo e con la mente. Molto difficile. Di quelli che hanno, è quello che sto dicendo qui, è quello che di quello che hanno deciso, di quello che hanno scelto quel tipo di vita e che lo mantengono in modo molto puro, è estremamente raro. Qui dicono che sono come le stelle nel cielo nel giorno, molto raro. Quindi è molto difficile, semplicemente dovuto a questa familiarità che abbiamo con quel tipo di attività distruttrice, possiamo chiamarle così, distruttrice. Sì, leggiamo l'ultimo paragrafo così finiamo la sezione. Insieme alla discriminazione, ad esempio, di se stessi effettivamente seduti su una sezione di terreno della dimensione di una coperta nella quale in estate vi sono moltissimi insetti, i molteplici esseri trasmigranti che sono spiriti affamati sono più numerosi degli animali e i molteplici esseri trasmigranti che sono esseri infernali sono più numerosi di quelli. Inoltre, rispetto agli animali, vi sono due, quelli nelle profondità degli oceani e quelli sparpagliati sulla terra. Fra costoro, gli animali che sono sparpagliati sono effettivamente molto meno. Non di meno, su una porzione di terra della dimensione di una coperta, non vi è una stanza per più di circa 10 persone. Tuttavia, i piccoli animali che esistono lì, per esempio, sono di numero incalcolabile. Non di meno, di ogni distretto vi sono molti esseri umani. Essi non superano di molto 100.000 unità, mentre il fatto che le piccole creature lì presenti non possano essere contate e così via è direttamente stabilito tramite un cognitore valido inferenziale sia dal saggio che dallo sciocco, senza la necessità di misurarlo. Rispetto ai supporti fisici delle trasmigrazioni felici, persino tra coloro con un corpo umano, quelli che hanno un corpo umano che incontrano Dharma sono rari. Vi sono inoltre molte persone che, sebbene abbiano incontrato il Dharma, quando esse lo ascoltano non trattengono le parole. Quando ci riflettono sopra non comprendono il significato e quando lo meditano non lo generano nel loro continuo. Inoltre, coloro che possiedono l'intelligenza dovuta all'ascolto, alla riflessione e alla meditazione completano solamente le preoccupazioni di questa vita. Si mediti riferendosi a questo sostegno di libertà e ricchezze, nel quale tutte le condizioni favorevoli per completare il Dharma sono complete, fino a quando non si genera un'esperienza come quella della consapevolezza, che è l'unica cosa con il desiderio di trovare un gioiello speciale che è molto raro nel mondo. Grazie. Ok, quindi questa è la terza contemplazione rispetto alla preziosa rinascita umana, che è contemplare la difficoltà di ottenerla tramite il numero o l'entità. Abbiamo visto l'analogia, abbiamo visto le cause, e adesso vediamo in termini del numero. Quindi semplicemente il testo sta dicendo che gli esseri umani sono molto rari. Se prendiamo in considerazione gli animali, e gli animali sono divisi in due categorie, quelli che sono sulla terra e quelli che sono negli oceani. Quindi quelli che sono negli oceani sono molto più numerosi che quelli sulla terra. Quindi vediamo che quanti sono gli animali, se prendiamo in considerazione gli insetti, eccetera, sono innumerevoli. Invece gli esseri umani sono 6 miliardi e mezzo. E poi se prendiamo in considerazione questi 6 miliardi e mezzo di esseri umani, quelli che hanno incontrato il Dharma e quello che hanno le 18 attributi particolari e complete della preziosa nascita umana sono estremamente rari. Quindi questo vediamo in quel modo che dal punto di vista proprio del numero, siamo delle persone molto fortunate perché abbiamo incontrato il Dharma, abbiamo questi 18 attributi e questo è molto, abbiamo ottenuto qualcosa che è quasi impossibile, veramente così, è quasi impossibile da ottenere, no? Queste 18 qualità, attributi particolari, sono, ve l'ho detto l'altra volta, no? Sono create da cose e condizioni particolari, compiuto in vite diverse e per una certa, per cose e condizioni maturano tutti insieme in questa esistenza. Abbiamo già avuto molte vite umane, ma ci mancavano questi 12 attributi, andavamo 1, 2, 6, 15, 17, 16, però adesso abbiamo i 18, quindi è molto importante riflettere su questa condizione estremamente favorevole che abbiamo, questa condizione estremamente rara che abbiamo, e cercare di generare il desiderio di cogliere questa opportunità che è ottenuta una volta, ottenuto quasi, possiamo quasi dire, una volta sola, guardando il tempo che separa una dall'altra, no? È molto, molto, molto rara di avere tutte queste condizioni messe insieme in un'esistenza. Quindi dobbiamo prendere in considerazione questa cosa. C'è un sutra dove c'era il Buddha all'epoca in India, quindi 2600 anni fa, e i suoi discepoli gli facevano delle domande quando il Buddha spiegava queste cose e dicevano: ma quanti sono gli esseri nei rami inferiori? Perché nel buddismo ci sono dei rami superiori e dei rami inferiori, no? Nei rami superiori abbiamo gli esseri umani, abbiamo i dei del rame del desiderio, abbiamo i dei del rame della forma, dove ci sono le concentrazioni, eccetera. E all'interno del rame del desiderio abbiamo tre reami inferiori, che sono gli animali, gli spiriti, e gli esseri degli inferni. Gli inferni sono freddi e caldi, sono 8 tipi, comunque insomiglia molto a quello di Dante, molto, molto simile, veramente simile. Quindi questa è la cosmologia all'interno del buddismo. E quindi gli chiedevano: ma quanti sono gli esseri nei reami inferiori? E il Buddha dice così, no? Cioè, prendete in considerazione la superficie di questa terra, prendete in considerazione le particelle di polvere che comprano questa terra. Dice: ecco, questa è la proporzione degli esseri che si trovano nei reami inferiori. E a un certo punto un altro dice: ma allora quanti sono quelli che migrano verso i reami superiori e che dimorano nei reami superiori? E il Buddha ha preso il suo lungo così e ha fatto, ecco, neanche, ha fatto così, ha fatto, quelli particelli che si mantengono su lunga, questa è la proporzione degli esseri che esistono nei reami superiori. Quindi, quindi poi ne fate quello che volete, però diciamo, questa era la sua percezione. Quindi io mi fermerei qui. Quindi abbiamo chiuso questa sezione che è il contemplare la preziosa rinascita umana. Vi ripeto, sono tre il modo di contemplarla a tre sezioni: identificare l'entità, quindi 18 attributi; 2, il riflettere sul potenziale; e 3, il riflettere sulla difficoltà di riottenerla. E il riflettere sulla difficoltà di riottenerla si fa tramite analogia, tramite cause e tramite entità. Questo è il modo di riflettere. Quindi, riflettendo su questi vari aspetti, la mente dovrebbe essere l'oggetto di meditazione e generare una mente molto gioiosa, cioè che si sente estremamente fortunata. E come dicevo l'altra volta, è una contemplazione abbastanza rivoluzionaria, perché forse per la prima volta contempliamo quello che abbiamo invece di contemplare quello che non abbiamo. Di solito siamo sempre a contemplare quello che non abbiamo, quello che hanno gli altri, quello che hanno i vicini. Invece questa volta contempliamo quello che abbiamo la difficoltà, la nostra fortuna. Quindi vedrete che anche non c'è bisogno di essere un grande meditatore, in poche sessioni di 15 minuti, cioè in pochi giorni, una settimana, la mente riesce a avere un buon apprezzamento di questa cosa. Okay? Quindi è un antidoto, se vi sentite un po' depresso perché non siete come volete essere, mettete la mente su questo, vedrete, vi sentite meglio subito. Okay? E quindi lo scopo è di ve lo ripeto, di far generare un interesse, di cogliere questa, di sfruttare questa opportunità che abbiamo, che è molto difficile da ottenere e che ha un grande significato una volta ottenuto, e che è breve come un fulmine, no? L'esistenza umana è molto breve, anche se in termini di giorni così sembra lunga, è molto breve. Guardate indietro quanti anni sono passati così, eh? È molto breve. Quindi va bene andare con gli amici al cinema, va bene, però non fate solo questo, tutte queste cose, non fate solo questo, nell'interesse di tutti. Ok, ci sono un paio di domande? Sì? Io sento molto quello che è stato detto stasera, solo un dubbio riguardo la felicità che nasce dallo sconforto. Io vengo più da una formazione... Scusa, la felicità che nasce dallo... La felicità che nasce dallo sconforto. Ah, non può essere una felicità che... Non esiste una felicità che nasce dallo sconforto. No, abbiamo detto che la felicità... può nascere solo da un momento di sconforto, nel senso che io, a forza di lavorare, mi sento stanca, desidero di andare al mare, e quando sono al sole desidero entrare nell'acqua, e quando sono nell'acqua desidero... No, allora, abbiamo detto, no, è una, è, non è che è, nasce dallo sconforto, è che la diminuzione, la diminuzione dello sconforto è quello che viene identificato come felicità. Non è lo sconforto che è identificato come felicità. È uscita da uno stato. Esatto. Ma facendo pratiche di lunga vita, insomma, mangiando sano, senza disperdere, senza andare fuori con gli amici, senza allenarsi di Coca-Cola e cose del genere, io sento che se mi sveglio la mattina e zappo il mio orto, potrei stare lì per sempre. Abbraccio il mio ragazzo, potrei stare lì per sempre. Preparo da mangiare, potrei stare lì per sempre. Insomma, quando io mi tratto bene, non sempre una felicità che nasce da sconforto, sento che è una condizione eterna come uno stato di felicità, per cui la pratica del rigioire questi momenti di eterna felicità mi porta a proiettarmi mentalmente non più verso la sofferenza, bensì verso una possibilità di felicità, diciamo, nel nirvana kaya, che poi si può protrarre senza per questo non compiere un percorso, quindi continuerò comunque a realizzare, l'affiorare interdipendente, la vacuità, cercare di coltivare la dolcezza, però mi sembra un po' triste concepire la felicità in questo modo, ecco, sempre come un... Ma appunto non è felicità, ma è se tu mi dici che effettivamente quando stai zampando il tuo orto potrai starci, come si dice, sappare l'orto? Sì. Potrei essere per sempre, prova! Prova, vedrai che dopo un paio di ore non ce la fai più. Quindi vedi che cioè, cercare quella cosa terrena come può essere la compagnia per andare, cioè, quindi quello che mi stai dicendo, mi stai dicendo che sì, dosiamo, sì, si dice dosare, sì. Si dosiamo bene le cose, che ci fermiamo prima che diventa sconfortevole, allora possiamo stare in quel modo. No, ci sono proprio situazioni in cui dico stare qua per sempre. Ma è impossibile, non è, questa è una concezione erronea, perché non è impossibile. Se tu questo non avviene, però al punto. No, ma non è eterna, perché dipende da cosa e condizione, e si finisce, quindi non è eterna. Non è eterna, ma... Non c'entra. Cioè, nel senso, se fai qualcosa per un'altra persona, puoi farla per tanto tempo. È comunque un dimorare sì. Della pace. No, ma io non sto dicendo che lavorare nell'orto non è piacevole, che stare nel braccio, nei bracci di qualcuno non è piacevole, eccetera. Non sto dicendo di questo, sto dicendo che questo non è la vera felicità. Quello che sto dicendo. Sto dicendo che questo si chiama felicità del cambiamento, cioè sofferenza del cambiamento, perché non dura. Devi pensare a questo, ciò che ti produce, cioè la felicità è distrutta dalle sue proprie cause. Comunque è qualcosa molto difficile da accettare, ok? Quindi non c'è problema, non dovete essere d'accordo con me stasera, non c'è problema, anche tra un anno, ok? Però portate questo con voi a casa, rifletteteci sopra, vedete se è effettivamente così. Non sto dicendo che non è piacevole far questo, non è piacevole far questo, sto dicendo questo, dicendo che questo non sono vere felicità. Senza attaccarvi, sì, cioè comunque nella consapevolezza che non mi devo attaccare a questo momento perché finirà, però se ho la forma di una pianta che dà frutti, faccio la pianta che dà frutti, dal vuoto arrivo, sì. Forma e al vuoto. Va benissimo, però senza attaccarsi per noi essere ordinari è impossibile. Perché ogni volta che qualcosa viene percepito come piacevole, necessariamente c'è l'attaccamento, necessariamente. Perché? Perché siamo nel rame del desiderio, e quindi cosa significa? Significa che le nostre coscienze sensoriali hanno sete per i propri oggetti rispettivi. Quindi se c'è qualcosa che è percepito piacevole nella tua mente, necessariamente c'è l'attaccamento, almeno che tu sia un essere molto particolare, addestrato nel sentiero o eventualmente che è usato il modo di dimorare dei fenomeni, c'è attaccamento. Il problema è che non l'hai identificato, può darsi. Lo sento tanto come piacevole, bensì armonico, dico, è coerente con lo stato di manifestazione. Sì, sì, sì, sì, cioè, capisco. Lo puoi chiamare come vuoi, però il processo è sempre lo stesso. Comunque, cioè, pensateci, ok? Sì, come dicevi, ti ripeto, non ti sto dicendo che devi smettere di zoppicare l'orto o di bere della Coca-Cola, perché alla fine è la stessa cosa, no? Osserva, guarda le cose. Entrambi sono piacevoli. Bere la Coca-Cola fresca d'estate è piacevole, zoppicare l'orto è piacevole, essere nelle braccia di qualcuno è piacevole. Per un po' di tempo. È tutto qui il problema. Per un po' di tempo. Dopo non ce la fai più. E questo è il problema. Quindi quello che stiamo sottolineando qui è che in questa esistenza non c'è niente sulla quale ti puoi appoggiare per avere una felicità permanente e duratura. Sono solo dei piccoli momenti di qua e di là che hai, che sono separati da grande esperienza di confusione e di sofferenza. Questa è la nostra esistenza, però non dovete essere d'accordo con me, non c'è problema. Ok, vi ringrazio. Ok, adesso quindi abbiamo generato virtù, energia virtuosa, quindi questa cosa dobbiamo fare in modo che non viene persa, ok? Quindi dobbiamo cercare di dedicarla, ok? Quindi dobbiamo dedicare questi sforzi, questa energia virtuosa che abbiamo accumulato affinché noi possiamo velocemente ottenere lo stato di Buddha, no? Generare tutte le realizzazioni che ci portano al culmine di questo sentiero, diventare una fonte di felicità per gli altri, per fare che il Dharma si mantiene senza degenerare lungo, perché è una fonte di felicità, quindi dimora lungo nell'esistenza, per i veri maestri che insegnano i veri sentieri verso le vere cessazioni, che abbiano una lunga vita, che i loro desideri siano realizzati. Okay? Quindi c'è una piccola preghiera in tibetano, però in mente diciamo è questo. Dam dam dewa manu juve na chenre zivo, singya zoye shabe sita pandu den yuje. Daso jinye sambe gyawade, dam dam drova kuna gambe da, Jamba Jezu Lozan Rambai Tembe Nyambo Rindu Zenjejo. Grazie, buona serata. Quindi noi ci vediamo domenica. Scusate,